Ed ora di nuovo alla reception con la signora Renzi. Allora, signora, è pronta? Certo, sto aspettando. Dunque, 055-29-4883. 055-29-4893. No, signora, 29-4883. Ho capito. Vuole chiamare subito? Che ore sono? Le 10:05. No, forse più tardi. Ecco la sua penna, giovanotto, e grazie. Non c'è di che. A presto. Arrivederci. Arrivederci, signora.